Allora Gesù si rivolse alle folle e ai suoi discepoli, dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi e i farisei. Fate e osservate ciò che vi dicono, ma non quello che fanno, poiché dicono, ma non fanno. Legano infatti pesi opprimenti, difficili a portarsi, e li impongono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono rimuovere neppure con un dito. Fanno tutto per essere visti dagli uomini. Infatti fanno sempre più larghe le loro filatterie e più lunghe le frange. Amano i primi posti nei conviti e le prime file nelle sinagoghe. Amano essere salutati nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, poiché uno solo è fra voi il maestro e tutti voi siete fratelli. Nessuno chiamerete sulla terra vostro padre, poiché uno solo è il vostro padre, quello celeste. Non vi farete chiamare precettori, poiché uno solo è il vostro precettore, il Cristo. Chi è il maggiore fra voi sarà vostro servitore, chi si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Infatti, voi non entrate e trattenete coloro che vorrebbero entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché siete capaci di attraversare il mare e un intero continente per fare un solo proselito, e quando ci siete riusciti, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio è niente, se invece giura per l'oro del Tempio rimane obbligato. Stolti e ciechi, che cosa vale di più, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare è niente, se invece giura per l'offerta che sta su di esso rimane obbligato. Ciechi, ma che cosa vale di più, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Chi dunque ha giurato per l'altare fa giuramento per esso e per tutto ciò che si trova su di esso, e chi ha giurato per il Tempio emette giuramento per esso e per chi vi abita, e chi ha giurato per il cielo fa giuramento per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e poi trascurate i precetti più gravi della legge, come la giustizia, la pietà, la fede. Queste cose bisognava osservare, pur senza trascurare quelle altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno della coppa e del piatto, e dentro rimangono pieni di rapina e d'immondizia. Cieco fariseo, pulisci prima l'interno della coppa, e poi anche l'esterno di essa sarà pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché siete come sepolcri imbiancati, che all'esterno appaiono belli a vedersi, dentro invece sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti agli uomini, ma nell'interno siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché innalzate i sepolcri dei profeti e ornate i monumenti dei giusti, dicendo: se fossimo stati ai tempi dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di quelli che uccisero i profeti, e colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come sfuggirete al castigo della Geenna? Per questo ecco che io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Ebbene, di essi parte ne ucciderete mettendoli in croce, parte ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Verrà così su di voi tutto il sangue innocente sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste fra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò verrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho tentato di raccogliere i tuoi figli, come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico, infatti, da ora in poi non mi vedrete, fino a quando non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per mostrargli le costruzioni del Tempio. Ma egli disse loro: vedete tutte queste cose? In verità vi dico, non rimarrà qui pietra su pietra che non sarà diroccata.